Sulla tavola restavano spesso i resti della colazione della famiglia molto tempo dopo che Mr. Vincey si era recato, assieme al secondogenito, al magazzino, e Miss Morgan aveva già impartito una buona parte delle lezioni del mattino alle ragazze più giovani nella stanza adibita classe. La tavola attendeva il pigrone di famiglia, per il quale ogni genere di disagio per gli altri era meno sgradevole che alzarsi quando veniva chiamato. Questa era la situazione un mattino di ottobre, durante il quale ultimamente abbiamo visto Mr. Casaubon in visita alla Grange. E sebbene la stanza fosse un po' surriscaldata dal fuoco del caminetto, che aveva spinto lo spaniele a rifugiarsi ansante in un angolo lontano, Rosamond, per una qualche ragione, continuava a sedere al proprio ricamo più a lungo del consueto, scuotendosi di quando in quando e posandosi il lavoro sulle ginocchia per contemplarlo con aria di esitante stanchezza. Sua madre, che era tornata da una visita in cucina, si sedette dall'altro lato del piccolo tavolo da lavoro con un'aria di più completa placidità, finché quando l'orologio lanciò di nuovo l'avvertimento che stava per suonare, essa non alzò gli occhi dal ramendo dei merletti a cui erano intente le sue dita grassocce e suonò il campanello. «Tornate a battere alla porta di Fred, Pritchard, e ditegli che sono scoccate le 10:30». La cosa fu detta senza che si verificasse alcun mutamento nel radioso buonumore del volto di Mrs. Vincey, in cui i 45 anni non avevano scavato né angoli né parallele, e spinti all'indietro i lacci rosa della cuffia, si posò al lavoro sul grembo, mentre guardava con aria ammirata la figlia. «Mamma», disse Rosamond, «quando Fred scende vorrei che non gli faceste mangiare le arenga affumicate. A quest'ora di mattina non riesco a sopportare l'odore per tutta la casa». «Oh, mia cara, sei così dura con i tuoi fratelli. È l'unico difetto che devo riconoscere in te. Hai l'indole più dolce di questo mondo, ma sei così stizzosa con i tuoi fratelli». «Non stizzosa, mamma. Non mi sentite mai parlare in modo maleducato». «Sì, ma vuoi proibire loro delle cose? I fratelli sono così sgradevoli». «Oh, mia cara, devi scusare i giovani. Sii grata se hanno un buon cuore. Una donna deve imparare a sopportare le piccole cose. Un giorno ti sposerai». «Con nessuno simile a Fred. Non denigrare tuo fratello, cara. Pochi giovanotti hanno meno difetti, anche se non è riuscito a prendere la laurea, certo non riesco a capire perché, dal momento che mi sembra intelligentissimo. E anche tu sai che all'università ha ricevuto la stessa istruzione della migliore società. Meticolosa come sei, mia cara, mi meraviglio che tu non sia contenta di avere un giovanotto così distinto per fratello. Trovi sempre da ridire sul conto di Bob perché non è Fred. Oh no, mamma, solo perché è Bob». «Beh, mia cara, non troverai nessun giovanotto a Middlemarch che non abbia qualche difetto, ma...» E qui il volto di Rosamond si aprì in un sorriso che d'un tratto rivelò due fossette. A lei però non piacevano queste fossette e sorrideva poco in mezzo agli estranei. «Ma io non sposerò nessun giovanotto di Middlemarch». «Così sembra, amor mio, perché ne hai praticamente rifiutato il fiorfiore. E se si può avere di meglio, sono sicura che non c'è nessuna ragazza che lo meriti di più». «Scusatemi, mamma, vorrei che non diceste il fiorfiore. Perché? Cos'altro sono? Voglio dire, mamma, che è un'espressione piuttosto volgare». «Molto probabile, mia cara. Non sono mai stata brava a parlare. Come dovrei dire? I migliori di loro». «Beh, questo sembra altrettanto comune e insignificante. Se avessi avuto tempo di pensare, avrei detto i giovanotti eccellenti, ma con la tua istruzione devi saperlo». «Cosa deve sapere Rosy, mamma?» disse Mr. Fred, che era scivolato dentro inosservato, attraverso la porta semiaperta, mentre le donne erano chine sul loro lavoro ed ora, andato verso il caminetto, se ne stava con la schiena voltata verso di esso a riscaldarsi le suole delle pantofole. «Se è giusto dire giovanotti eccellenti», fece Mrs. Vincey suonando il campanello. «Oh, adesso ci sono tanti tè e zuccheri eccellenti. Eccellente sta diventando gergo da bottegai». «Il gergo sta cominciando a non piacerti, allora», disse Rosamond con mite serenità. «Solo in genere sbagliato. Ogni scelta di parole, gergo, è un segno di classe. Esiste l'inglese corretto, quello non è gergo. Ti chiedo scusa, l'inglese corretto è il gergo dei pedanti che scrivono libri di storie e saggi, e il gergo più marcato di tutti è quello dei poeti. Saresti disposta a dire qualsiasi cosa, Fred, pur di averla vinta tu? Bene, dimmi se è gergo poesia chiamare un bue un intrecciatore di gambe. Naturalmente puoi chiamarla poesia se vuoi. Ah, Miss Rosy, non distingui Omero dal gergo. Inventerò un nuovo gioco, scriverò delle espressioni di gergo e di poesia su dei foglietti e te li darò perché li separi. Santo cielo, Com'è divertente sentire parlare dei giovani, disse Mrs. Vincey con gioiosa ammirazione. Non avete altro per colazione, Pritchard? Disse Fred, rivolto alla cameriera che aveva portato caffè e pane tostato imburrato, mentre faceva il giro del tavolo esaminando il prosciutto, il manzo salato e altri avanzi freddi con un'aria di muto rifiuto e di educata astensione da dimostrazione di disgusto. Vorreste delle uova, signore? Delle uova no. Portatemi una costoletta alla griglia. Veramente, Fred, disse Rosamond quando la cameriera ebbe lasciato la stanza, se desideri prendere delle cose calde per colazione, vorrei che scendessi prima. Riesci ad alzarti alle 6 per entrare a caccia. Non capisco perché trovi così difficile alzarti le altre mattine. Questa è la tua mancanza di comprendonio, Rosie. Riesco ad alzarmi per andare a caccia perché mi piace. Cosa penseresti di me se io scendessi 2 ore dopo tutti gli altri e ordinassi costolette alla griglia? Penserei che sei una signorina insolitamente gaudente, disse Fred, mangiando il pane tostato con la massima compostezza. Non capisco perché i fratelli si debbano rendere sgraditi più delle sorelle. Non sono io che mi rendo sgradito, sei tu che mi trovi tale. Sgradito è una parola che descrive le tue sensazioni, non le mie azioni. Credo che descriva l'odore della costoletta alla griglia. Proprio per niente. Descrive una sensazione nel tuo nasino associata a certe idee schifiltose che sono classiche della scuola di Mrs. Lemon. Guarda mia madre, non trova da ridire su tutto, tranne su ciò che fa lei. Lei è la mia idea di donna gradevole. Che il cielo vi benedica tutti e due, miei cari, e non litigate, disse Mrs. Vincey con materna cordialità. Andiamo, Fred, dici tutto del nuovo dottore. Tuo zio è contento di lui? Piuttosto, credo. Rivolge a Lydgate ogni genere di domande e poi storce la faccia quando sente le risposte, come se gli pizzicassero le dita dei piedi. È il suo modo di fare. Ah, ecco qua la mia costoletta alla griglia. Ma come mai sei stato fuori fino a quell'ora tarda, mio caro? Avevi detto che andavi soltanto da tuo zio. Oh, ho cenato da Plimdale. Abbiamo giocato a whist. C'era anche Lydgate. E cosa ne pensi di lui? È molto distinto, suppongo. Dicono che provenga da una famiglia eccellente. I suoi parenti sono grossi proprietari terrieri di provincia. Sì, fece Fred. C'era un Lydgate al Jones College che spendeva soldi a non finire. E scopro che questo è un suo secondo cugino. Ma dei ricchi possono avere proprio dei poveri diavoli per cugini. Fa però sempre una certa differenza essere di buona famiglia, disse Rosamond con un tono deciso che dimostrava che aveva riflettuto sull'argomento. Rosamond era dell'idea che avrebbe potuto essere stata più felice se non fosse stata la figlia di un industriale di Middlemarch. Detestava qualsiasi cosa le ricordasse che il padre di sua madre era stato un locandiere. Certo, chiunque avesse avuto presente questo fatto avrebbe potuto pensare che Mrs. Vincey aveva l'aria di una locandiera assai bella e di buon umore, abituata agli ordini più capricciosi dei gentiluomini. Mi pareva strano che si chiamasse Tertius, disse la signora dal volto luminoso. Ma naturalmente è un nome di famiglia. Ma ora, dici che genere di uomo è esattamente? Oh, piuttosto alto, di carnagione scura, intelligente, parla bene, piuttosto saccente, credo. Mai una volta che capisca cosa intendi per saccente, disse Rosamond. Un tipo che vuol far vedere di avere delle opinioni. Ma mio caro, i dottori devono avere delle opinioni, disse Mrs. Vincey. Che cos'altro ci sono? Sì, madre, le opinioni per cui sono pagati, ma un saccente è un tipo che ti fa sempre un regalo delle sue opinioni. Suppongo che Mary Garth ammiri Mr. Lydgate, disse Rosamond, non senza un pizzico di malignità. Veramente non saprei, disse Fred con aria piuttosto cupa mentre si alzava da tavola e raccattato un romanzo che si era portato da basso, si buttò in una poltrona. Se sei gelosa di lei, va più spesso a Stone Court ed eclissala. Vorrei che non fossi così volgare, Fred. Se hai terminato, ti prego, suona il campanello. È vero, però, quello che dice tuo fratello, Rosamond, cominciò a dire Mrs. Vincey quando la cameriera ebbe sgomberato la tavola. È davvero un peccato che tu non abbia la pazienza di andare a trovare più spesso tuo zio, orgoglioso di te com'è, e voleva che andasse a vivere con lui. Non si può sapere cosa avrebbe potuto fare per te oltre che per Fred. Dio sa se non desidero avervi a casa con me, ma posso separarmi dai miei figli per il loro bene. E adesso è logico che tuo zio Firston faccia qualcosa per Mary Garth. A Mary Gertz può andar bene di stare a Stone Court perché lo reputa migliore che fare l'istitutrice, disse Rosamond ripiegando il proprio lavoro. Preferisco che non mi lasci nulla, se devo guadagnarmelo sopportando per tanto tempo la tosse di mio zio e i suoi brutti parenti. Non può continuare ad averne per molto, mia cara. Io non vorrei affrettare la sua fine, ma un po' per l'asma, un po' per quella malattia di cuore. Speriamo che lo aspetti qualcosa di meglio, in un altro mondo. E non nutro nessun risentimento verso Mary Gertz, ma bisogna pensare alla giustizia. E la prima moglie di Mr. Firthstone non gli ha portato un soldo, come ha fatto mia sorella. I nipoti e le nipoti dell'altra non possono vantare gli stessi diritti di quelli di mia sorella. E devo dire che penso che Mary Gertz sia una ragazza terribilmente brutta, più adatta a fare l'istitutrice. Non tutti sarebbero d'accordo con voi su questo punto, madre, disse Fred, che sembrava essere capace di leggere e anche di ascoltare. Beh, mio caro, disse Mrs. Vincey, cambiando abilmente opinione. Se le fosse lasciata una certa fortuna, una sposa, i parenti della moglie, i Gers sono così poveri, vivono in tali ristrettezze. Ma ti lascerò ai tuoi studi, mio caro, perché io devo andare a fare qualche spesa. Gli studi di Fred sono molto profondi, disse Rosamond alzandosi assieme alla madre. Sta solo leggendo un romanzo. Beh, fra poco andrà al suo latino e al resto, disse Mrs. Vincey con aria consolatrice, accarezzando la testa del figlio. C'è il caminetto acceso apposta nella sala perfumatori. L'ha voluto tuo padre, lo sai, Fred caro, e io gli dico sempre che sarai bravo e tornerai all'università per laurearti. Fred attirò la mano della madre verso le proprie labbra, ma non disse niente. Suppongo che non avrai intenzione di andare a cavalcare oggi, disse Rosamond, indugiando un poco, dopo che la madre se ne fu andata. No, perché? Il babbo dice che posso prendere il baio per cavalcare ora. Puoi venire con me domani se vuoi, solo che andrò a Stone Court, ricorda. Ho tanta voglia di fare una cavalcata. Non mi interessa dove andiamo. In realtà Rosamond desiderava andare a Stone Court più che mai. Oh, dico Rosy, fece Fred mentre essa stava uscendo dalla stanza. Se stai andando a suonare il piano, lasciami venire a suonare qualche aria assieme a te. Ti prego, non chiedermelo questa mattina. Perché non questa mattina? Sul serio, Fred, vorrei che tu la smettessi di suonare il flauto. Un uomo che suona il flauto fa una faccia così stupida e tu sei così stonato. La prossima volta che uno ti corteggerà, Miss Rosamond, gli dirò come sei condiscendente. Perché dovresti aspettarti che io ti facessi il favore di starti ad ascoltare mentre suono il flauto, se io non devo aspettarmi che tu mi faccia il favore di non suonarlo? Perché dovresti aspettarti che ti porti fuori a cavalcare? Questa domanda portò a un accomodamento, perché Rosamond aveva fermamente deciso di fare quella particolare cavalcata. Così Fred ebbe la soddisfazione di fare quasi un'ora di pratica di Ahit Inos, i Banks and Breeze e altri motivi favoriti presi dal suo istruttore di flauto. Un'esecuzione bolsa in cui egli mise molta ambizione e una fiducia sconfinata. Capitolo 12. La cavalcata a Stone Court che Fred e Rosamond compirono il mattino successivo attraversò un tratto notevole di paesaggio dell'Inghilterra centrale, quasi tutto campi e pascoli, con siepi a cui si permetteva ancora di crescere in becce e spugli e di spargere frutti corallini per gli uccelli. Minuscoli dettagli conferivano a ogni campo una particolare fisionomia, cara agli occhi che si sono posati su di loro fin dalla fanciullezza. Lo stagno in un angolo dove le erbe erano umide e gli alberi si piegavano sussurrando, la grande quercia che riparava sotto la sua ombra uno spiazzo spoglio in mezzo al pascolo, l'alto argine su cui crescevano i frassini, il ripido pendio della vecchia cava di Marna che creava uno sfondo rosso alla lappola, i tetti addossati ai pagliai della casa senza una via d'accesso visibile, il cancelletto e la staccionata grigia contro il profondo bosco confinante e la casupola isolata. Il suo vecchio, vecchissimo tetto di paglia, pieno di rigonfiamenti e avvallamenti muschiosi, con stupende modulazioni di luce e di ombra, simili a quelle che, per rivedere anni dopo, compiamo lunghi viaggi e vediamo più ampi, ma non più stupendi. Ecco, Le cose che fanno provare ogni genere di gioia per il paesaggio all'animo delle persone nate nell'Inghilterra centrale, le cose in mezzo alle quali mossero i primi passi o forse impararono a memoria fra le ginocchia del padre mentre questi cavalcava tranquillamente. Ma la strada, anzi il viottolo, era in stato eccellente, perché Lowick, come abbiamo visto, non era una parrocchia di viali fangosi e di affittuari miserabili, e fu nella parrocchia di Lowick che Fred e Rosamond entrarono dopo una cavalcata di un paio di miglia. Dopo un altro miglio sarebbero giunti a Stone Court e al termine della prima metà la dimora era già visibile, simile a un edificio in pietra arrestato nella crescita da un inatteso sbocciare di case coloniche sul fianco destro che le avevano impedito di diventare qualcosa di più della solita dimora di un agiato coltivatore. Non costituiva una vista meno gradevole in lontananza, nonostante l'ammasso di covoni svettanti che equilibrava la bella fila di noci a destra. Ben presto fu possibile scorgere qualcosa che avrebbe potuto essere un calesse, fermo nel viale circolare antistante alla porta principale. Dio mio, disse Rosamond, spero che nessuno degli orrendi parenti dello zio sia qui. Ci sono però, quello è il calesse di Mrs. Whale, l'ultimo calesse giallo rimasto, direi. Quando ci vedo, Mrs. Whale, sopra capisco perché il giallo possa essere stato portato in segno di lutto. Quel calesse mi sembra più lugubre di un carro da morto, ma a pensarci, Mrs. Whale indossa sempre del crespo nero. Come mai, Rosie? Non le possono morire sempre dei parenti? Non lo so proprio, e non è per niente un'evangelica, disse Rosamond con aria pensosa, come se quella professione religiosa avesse spiegato pienamente l'uso perpetuo del crespo. E non è povera, aggiunse dopo un momento di pausa. No, perbacco, sono ricchi come ebrei quei Whale e Thurston. Voglio dire, per della gente come loro che non vuole spendere un soldo. Eppure ronzano attorno allo zio come degli avvoltoi e hanno paura di perdere un centesimo della loro parte. Ma credo che lui li odi tutti. La Miss Whale, che godeva di così poca ammirazione agli occhi di questi lontani parenti, aveva per caso detto proprio quella mattina. Per nulla con aria di sfida, ma col tono basso e soffocato come di una voce udita attraverso la bambagia, che non ci teneva alla loro buona opinione. Era seduta, come fece notare, in casa del proprio fratello ed era stata una Jane Fairstone per 25 anni prima di diventare una Jane Whale, il che le dava il diritto di parlare quando coloro che non avevano alcun diritto di farlo si erano presi delle libertà col nome del proprio fratello. A cosa stai mirando con questo? Disse Mr. Fairstone, reggendo il bastone fra le ginocchia e sistemandosi la parrucca, mentre le lanciava una fuggevole occhiata penetrante che parve rimbalzargli addosso come una corrente di aria fredda e lo fece tossire. Mrs. Whale dovette aspettare a rispondere finché non fu di nuovo calmo, allorché Mary Garth gli ebbe somministrato dell'altro sciroppo ed egli cominciò a strofinare il pomo d'oro del proprio bastone, guardando con amarezza il fuoco. Era un fuoco splendente, ma non faceva alcuna differenza per il colorito rossiccio dai toni gelidi del volto di Mr. Whale, scialbo come la sua voce. Per occhi aveva delle semplici fessure e le labbra si muovevano a malapena quando parlava. I dottori non possono vincerla quella tosse, fratello. È proprio come quella che ho io, perché sono tua sorella, per costituzione e tutto. Ma come stavo dicendo, è un peccato che la famiglia di Mrs. Vincy non possa essere amministrata meglio. Non stavi dicendo niente del genere, dicevi che qualcuno si era preso delle libertà col mio nome e niente di più di quando non possa essere dimostrato se quello che tutti dicono è vero. Mio fratello Solomon mi dice che a Middlemarch si racconta a destra e a sinistra che il giovane Vincy ha poco nerbo e gioca sempre a biliardo da quando è tornato a casa. Stupidaggini, cos'è una partita a biliardo? È un bel gioco da persone per bene e il giovane Vincy non è uno zotico. Se tuo figlio John si mettesse a giocare a biliardo adesso, allora sì che si farebbe ridere dietro. Tuo nipote John non ha mai preso l'abitudine di giocare a biliardo o qualsiasi altro gioco, fratello, e non si sogna neppure di perdere centinaia di sterline, che se quello che tutti dicono è vero, devono uscire da qualche altra parte che dalle tasche di Mr. Vincy padre, perché dicono che sono anni che perde soldi, anche se nessuno si crederebbe a vederlo andare a caccia coi levrieri e a tenere sempre la casa aperta agli ospiti come fanno loro. E ho sentito dire che Mr. Bulstrode rimprovera Mrs. Vincy più che mai per la sua volubilità e per come vizia i figli. Cosa mi interessa, Balstrode? Non è mica il mio banchiere. Beh, Mrs. Balstrode è la sorella di Mr. Vincey e dicono proprio che Mr. Vincey commercia soprattutto con i soldi della banca. E puoi vedere da solo, fratello, quando una donna che ha passato la quarantina ha i nastrini rosa sopra al vento e quel modo frivolo di ridere di tutto. Questo è molto sconveniente, ma viziare i propri figli è una cosa e trovare i soldi per pagare i loro debiti è un'altra. E si dice apertamente che il giovane Vincey si era fatto prestare dei soldi grazie a delle speranze. Quali speranze non lo dico. Miss Garth mi sente e la invito a riferire. So che i giovani si difendono a vicenda. No, grazie, Mrs. Whale, disse Mary Garth. Detesto troppo sentire dei pettegolezzi per voler andare a ripeterli. Mr. Fairstone lisciò il pomo del suo bastone e si lasciò andare a una breve risata convulsa, che aveva lo stesso suono autentico del sogghigno di un vecchio giocatore di whist davanti a una brutta mano. Sempre con lo sguardo fisso sul fuoco, disse: E chi ha la pretesa di dire che Fred Vincey non abbia delle speranze? Un giovanotto così bello e vivace, è probabile che le abbia. Ci fu un breve attimo di silenzio prima che Mrs. Whale ribattesse. E quando lo fece, la sua voce parve leggermente imbevuta di lacrime, sebbene il suo volto fosse ancora asciutto. Che sia vero o no, fratello, è naturalmente un dolore per me e il nostro fratello Solomon sentire che ci si prende delle libertà sul tuo nome, con una malattia che può portarti via in 2-2-4. E quando delle persone che non sono dei Fairstone, più del saltimbanco alla fiera, calcolano apertamente che la tua proprietà vada loro. E io, tua sorella, e Solomon, tuo fratello. E se deve essere così, perché è piaciuto all'onnipotente fare delle famiglie? A questo punto, Mrs. Whale versò le lacrime, ma con moderazione. Andiamo, parla, Jane, disse Mr. Fairstone guardandola. Intendi dire che Fred Vincey ha convinto qualcuno ad anticipargli dei soldi su quello che dice di sapere sul mio testamento, eh? Non sono stata io a dirlo, fratello. La voce di Mr. Whale era tornata di nuovo asciutta e ferma. Me l'ha detto mio fratello Solomon ieri sera, quando è passato di ritorno dal mercato per darmi dei consigli sul grano vecchio. Siccome io sono vedova e mio figlio John ha solo 23 anni, anche se forte come una quercia. E lui l'aveva saputo da fonte sicurissima, e non una sola, ma molte. Sciocchezze, bestialità, non credo a una parola. È tutta una storia inventata. Va alla finestra, signorina, mi pare di aver sentito un cavallo. Guarda se sta arrivando il dottore. Non inventata da me, fratello, e neppure da Solomon. Che qualunque altra cosa possa essere, e non nego che faccia delle stramberie, ha fatto il suo testamento e divise i suoi beni in parti uguali fra i parenti che gli sono amici. Anche se a mio parere penso che siano delle volte in cui qualcuno dovrebbe godere di considerazione più degli altri. Ma Solomon non fa nessun segreto di quello che ha intenzione di fare. Tanto peggio per lui, disse Mr. Fairstone con una certa difficoltà. E poi fu preso da un forte accesso di tosse che obbligò Mary Garth a stargli vicina, così che non riuscì a vedere di chi fossero i cavalli, che in quel momento si fermarono battendo gli zoccoli sulla ghiaia davanti alla porta. Prima che l'accesso di tosse di Mr. Fairstone si fosse calmato, Rosamond entrò, tenendo sollevato il suo costume da cavallerizza con molta grazia. Rivolse un inchino cerimonioso a Mrs. Whale, che disse con freddezza: Salve, signorina! Sorrise e fece un cenno muto del capo a Mary. E restò in piedi finché la tosse non fosse cessata e permettesse allo zio di accorgersi di lei. Ehi là, signorina, questi disse finalmente, hai un bel colorito, ma dov'è Fred? Si sta occupando dei cavalli, sarà qui in un attimo. Siediti, siediti. Mrs. Whale, è meglio che te ne vada.